Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna. Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. Buongiorno a tutti da Mala Radio. Oggi abbiamo una nuova puntata per la vostra felicità. Chi di voi non ha mai pensato che palle Mala Radio che parla sempre di Milano, città mostruosa europea e piena di soldi, e dei suoi violenti interventi di rigenerazione urbana? Quanti di noi compagni e compagne non pensano che le città grandi siano quei posti, quei luoghi dove è possibile colpire dritto al cuore del potere, perché lì girano i soldi, gli investimenti, e perché le metropoli hanno dei confini talmente ampi da arrivare a parlare di città diffusa, dove non si capisce più dove sia l'inizio e dove sia la fine. Quante sono le parole degli urbanisti che parlano di rigenerazione, di spazio pubblico, di città aperte, multiculturali, di città vivibili, ecosostenibili, inclusive, progetti pilota di socialità? Quanti non pensano lì di poter incrociare le lotte degli ultimi e poterle sostenere, a volte rimanendo asfaltati dalle dinamiche arriviste o di comodo generate da, ai noi, i meccanismi stessi della città. Questo per la grande densità abitativa che vi si ritrova, che fa sperare di poter ribaltare i rapporti di forza, forse unendosi. Ma la radio poi non è certo una radio solo per chi si riconosce nel mondo dei compagni. Molti si recano nelle città per le offerte che propone, di lavoro, sopravvivenza, intrattenimento, formazione. Ma quanto è possibile creare legami? A me sembra che queste città abbiano più muri invisibili di quanto si possa immaginare o toccare, palpare. Alcuni teorici li chiamano proprio linee di confine. Non so se sia la definizione esatta, però mi è sembrato di sentire così. Non sono un esperto urbanista. Oggi allora abbiamo pensato di guardare altrove, in un centro più piccolo, a Giulianova, in Abruzzo, dove la vita di una ventennale esperienza di occupazione è stata minata dallo sgombero, sempre in nome del trend della riqualificazione, che sventola la bandiera di cartapesta della socialità È da questi centri più piccoli che a volte si riescono a captare, scoprire esperienze virtuose dove quello che cerchiamo invano in città accade davvero. Abbiamo visto a Busto con la storia del Green Pass, a Saronno, a Monza, ma gli esempi potrebbero essere molteplici, scusate se non li cito tutti quanti. Ora ci metteremo in collegamento con Giulianova e ascolteremo direttamente la loro storia. Così finisco il mio sproloquio insensato, forse. O speriamo che per qualcuno abbia un senso, non lo so. Chiamiamo. Attenzione! Come insegnano le buone regole di marketing, però prima del contenuto desiderato ci vuole uno spottino. Contenuto ascoltabile solo dopo l'annuncio, impossibile saltare. Che palle, Ambrogio, ma si può che per un'intervista di 15 minuti hai sproloquiato più tu di lui? Scusate, mi faccio prendere la mano, anzi la bocca. Vabbè dai amici, che tanto non c'è un cazzo da fare, io sto in isolamento. Ma sentite, voi non avete un leggero languorino? Sì, io sono morta di fame. Sono connario, un giorno l'han detto al notiziario che non trovando in cantina mi sono bevuto l'apparecchino. Cosa? Una cena speciale? Sì, ma io non ho voglia di un panino al volo. Se io voglio mangiare un bel piatto cinese shiitake o degli involtini gustosi. Insomma, io ho davvero fame. Ma cosa hai capito? La panetteria occupata in via Ponte Rosso. E questa è la canzone di Gonario. Sì, è vero, sono sentito. Questo sarà una poca eccezione. Non ci giornali, Bologna, Piacenza, Emilia, Emilia, Emilia, Emilia, Emilia, altro che la solita pastazza, il sugo delle solite iniziative. Ma che, davvero? E come mai tutte queste cose, tutta questa cosa così in grande? Perché finalmente Mala Radio ha deciso di farsi conoscere, sennò parliamo sempre a quei 10 finti ascoltatori che fanno finta di ascoltare per farci contente. Sì, Ambrogia, ma non solo, il 19 alle 11 a Capofrasca in Sardegna sarà un'azione antimilitarista con taglio delle reti in occasione della fase militare durante l'esercitazione di Carbo da Porto. Ci sono anche due inviati di Mala Radio che saranno lì per raccontare di un'andata. Insomma, isolate noi, ma anche in Sardegna di tutti i militari in fanno di queste cose che devono uscire. Quindi parleremo con loro per sapere cosa è successo? Sì, sì, un vero talk show, si fa per dire, Insomma, così prendiamo due piccioni con una fava, o per dirla un po' meno specista, mettiamo un piede in due scarpe. Bello, bello, andiamoci! No, ragazze, noi ce l'ascoltiamo da casa, o ovunque siamo. Voi avete il Covid, io le rotelle fuori posto e sono dal meccanico, almeno qui cucinano bene, va. Però voi andate, ore 19.30, via Conte Rosso 20, cena di autofinanziamento di Mala Radio con collegamento dalla Sardegna. Bene, si può saltare l'annuncio adesso? Volevo sapere cosa era successo a Giulianova. Va bene. Ah, quanto mi piace il tutù delle chiamate. Pronto? Ciao, sono di Mala Radio. Ciao. Ciao. Ascolta, ma ti andrebbe di raccontarmi un po' innanzitutto la storia un po' del campetto, anche come è nato, che attività facevate, qualche evento saliente e poi magari anche dello sgombero e del nuovo spazio, se ti va. Va benissimo. Allora, ciao a tutti e tutte, il campetto occupato era nato circa sei anni fa, nel 2016, in quel di Giulianova Paese. È nata dall'esperienza della Casa del Popolo ormai decennale, che era un posto che è ancora, perché ancora esiste un posto in affitto a Giulianova Paese, a un 100 metri da quello che poi è diventato il campetto occupato. 10 anni fa abbiamo aperto questo spazio, la Casa del Popolo, dove tuttora c'è una libreria, una biblioteca di stampa anarchica, ma non solo, da lì abbiamo iniziato a fare tutta una serie di iniziative, di incontri, partecipazioni di lotte, a sostegno degli ultimi, a sostegno delle senza casa, nelle varie mobilitazioni ci sono anche a livello locale, penso anche contro la petrolizzazione della costa abruzzese. Certo. E da lì ovviamente il gruppo che c'era di base, no, della Casa del Popolo man mano è andato crescendo, e crescendo sviluppava tutta una serie di pratiche e contenuti altri, e al tempo stesso aveva anche delle esigenze altre, ovvero la volontà e il bisogno di uno spazio occupato che servisse sia il bisogno del gruppo che c'era alla Casa del Popolo, sia la crescita di nuove lotte. Così 6 anni fa si occupò uno spazio abbandonato che era un centinaio di metri dalla Casa del Popolo, il dello Splendore, era un campetto che in cui c'erano gli spogliatoi e una vasta area, una parte di mattonelle e una parte di terra. Che era abbandonato da tanti anni, leggevo, sentivo in una vecchia intervista, no? Sì, era abbandonato da circa 30 anni, tranne per un breve periodo in cui era il parcheggio della municipale. Okay. Questo perché era in pieno centro storico, a Giulianova Paese, essendo in pieno centro storico serviva un po' come il parcheggio alla municipale, però quel pezzo di terra lì è di un ente che si chiama il Castorani, che però è gestito a livello di sovrastruttura dall'ASP2, che è un ente che fa servizio alla persona. Ah, ok. E questo pezzo di terra fu una donazione tempo addietro all'ente da parte di una signora che morì, perché però l'aveva dato col vincolo che avesse funzione sociale. Quindi lo spazio del campetto non solo era abbandonato, ma quel breve periodo che era stato usato per tutt'altra funzionalità per cui doveva essere usato, perché è un parcheggio. Perché era un parcheggio, esatto, che di sociale non ha niente. Non ha niente, però essendo abbandonato per brevi periodi, quel campetto era un po' autogestito dal paese, tant'è che si chiamava campetto arcobaleno, cioè nel senso era un po' un luogo di ritrovo del paese, certo. Però niente di organizzato, si andava lì e basta. Noi l'abbiamo riaperto e abbiamo permesso la fruibilità un po' a tutti e tutte, e ovviamente l'abbiamo riempito di contenuti nostri che man mano negli anni sono cresciuti, non senza incidenti, perché dopo un paio d'anni ci hanno incendiato lo stabile in una notte, e siamo riusciti anche a ricostruirla anche meglio di prima. Abbiamo fatto delle dense strutture esterne per fare iniziative più ampie, e abbiamo partecipato e messo su una serie di mobilitazioni che sia nel territorio stretto che anche un po' più ampio hanno avuto man mano sempre più risalto e quindi partecipazione. E poi nel tempo tutte le serie di lotte che portavano avanti portavano anche delle esigenze altre. Penso ad esempio alla lotta per la casa, che persone che si trovavano senza casa al campetto, grazie alle roulotte, al fatto che c'erano degli impianti elettrici e via discorrendo, almeno potevano avere un tetto, dell'acqua calda, dei servizi, si potevano cucinare. Il campetto andava sempre man mano crescendo. Gli ultimi 2 anni le varie lotte del territorio si sono un po' focalizzate sull'amministrazione locale, nata come amministrazione civica, poi passata spudoratamente alla Lega, nonostante fosse andata al ballottaggio proprio contro la Lega. Noi non abbiamo criticato ovviamente solo per questa cosa qui. In quell'occasione c'è stata una protesta un po' cittadina, in cui ci sono stati anche un po' di scontri con le guardie, sono diverse persone denunciate, con poliziotti che non so quanti giorni pronti si hanno preso, nell'episodio in cui il sindaco passa la Lega. Però per tutta una serie di politiche, no, che i razzisti autoritari ci hanno abituato, e quindi ad esempio volevano mettere, e poi sono riusciti a mettere il DASP urbano, e lì si è creata la mobilitazione, che cortei, presenza dei consigli comunali, persone cacciate dai consigli comunali, proteste, mobilitazioni e via discorrendo. Oppure tutta una serie di situazioni che in città si sviluppavano, perché il sindaco è anche un sessista, quindi si permetteva di insultare le donne sui social, e noi di contraccolpo ci organizzavamo subito con le persone per fare dei presidi di contrasto. Oppure tutta una serie di nefandezze sono in città, la repressione degli ultimi, no? Penso alle guerre che possono fare i leghisti contro migranti, immagino. Contro i migranti, oppure che ti posso dire, contro chi sta fuori all'ospedale o altri luoghi a chiedere l'elemosina, e quindi ci siamo messi di contrasto a queste cose schifose che vogliono fare l'amministrazione. Su ogni minima cosa abbiamo battuto il ferro, e quindi si è creato un contrasto netto che tra noi e l'amministrazione. Questa cosa qui, dal punto di vista politico, ci ha dato anche tanto risalto, perché una forza auto-organizzata come la nostra entrava, se non dico quasi quotidianamente, ma settimanalmente nel dibattito pubblico, e ci entrava con un certo peso. D'altro canto però ha fatto in modo che la controparte organizzasse il tutto per sgombrarci. Ti dicevo prima che il campetto occupato era uno spazio gestito dall'ASP2, sì, che è un ente sovrastrutturale che gestisce i beni, vari beni sociali, tra cui quelli del Castorani, che sono i proprietari del campetto. Certo. Sì, gestisce i beni del Castorani. Che è successo? È successo che le nomine che vengono fatte all'ASP2 sono nomine politiche. Ok? Sì. Quando il sindaco è entrato, doveva mettere una persona di sua fiducia come presidente di questo ente affinché decidesse a più pari lo sgombero. Okay? Una nomina che doveva mettere una persona di sua fiducia come presidentessa della struttura. Ha messo tale Giulia Palestini della sua stessa area politica, perché il sindaco viene da Forza Italia e poi è passato alla Lega. Questa è Giulia Palestini, che anche lei di facciata si occupa di sociale. In modo informale è venuta una volta al campetto, noi non la conoscevamo, la conosceva qualcuno, dicendo: io sono tal Detali, presentessi l'ASP2, qua dovete andare. Noi ci siamo guardati un po' interdetti e ci abbiamo detto: come ci dobbiamo andare? Cioè, senso, così dal nulla, ci vivono le persone, anche persone anziane ci vivevano. Sì. Se non ce l'andiamo, voi andate con le buone, voi andate con le cattive, ci ha detto. Abbiamo detto: vabbè, a sto punto finisce il dialogo, no? Non che noi, certo, volessimo mai fare un dialogo con le istituzioni, però in quel campo so. E lì è nata, parliamo la scorsa primavera, diciamo lì è partita la minaccia di sgombero seria, e abbiamo iniziato a interessare un po' tutta una serie di forze che ci sono vicine, a partire dai compagni e le compagne, e a partire anche tutti i legami complici che abbiamo nel territorio. Tra l'altro, quindi, sentivo in un'intervista che usavano anche la scusa dei bambini che non potevano accedere al campetto, mentre invece comunque il campetto era un luogo che era aperto a tutti quanti, tutte quante, no? Sì, perché praticamente il Castorani è un ente in cui ci sono ragazze madri, migranti, queste situazioni qua, e ci sono una dozzina di bambini piccoli, qualcuno più piccolino, qualcuno più grandicello. Il progetto su cui ci hanno sgomberato è un progetto di riqualificazione dell'area per fare un campo da calcetto. Okay. Però hanno usato i bambini come scusa, perché per dire: ci sono gli anarchici, i bambini non possono giocare. Però messa così, la narrazione, diciamo, per Rete 4 sarebbe passata. In un contesto di città dove le persone ti conoscono, dicono: oh, ma che cazzo sta a dire il sindaco? Certo, ma come, certo, non possono giocare? Ci possono andare sempre. Tant'è che se i bambini un po' più grandicelli, adolescenti, 12 anni, a qualcuno di quei bambini, qualcuno gli avesse chiesto: ma voi che pensate dello sgombero del campetto occupato? Loro avrebbero detto: siamo assolutamente contrari. Certo, no? Certo. Perché sono amici nostri, li conosciamo, cioè stanno lì, ci vediamo, no? Poi un leghista, che è il paradosso, da un leghista come il sindaco, che dice: male agli anarchici perché non vanno a giocare i bambini, i figli di migranti. È proprio l'apoteosi dell'ipocrisia. Sì, il parossismo totale. E quindi in città sta cosa non è passata per niente. C'è stato uno sgombero. Noi sinceramente, quando in primavera è uscita la minaccia dello sgombero, avendo fatto un lavoro abbastanza esteso, pensavamo si fossero un po' calmati, no? Perché avrebbero avuto gran parte della città contro. In realtà, sicuramente abbiamo un po' sbagliato lettura, perché loro hanno continuato a lavorare sotto, tant'è che le carte sono state notificate, c'era una serie di inchieste, di situazioni, e a fine novembre, una mattina, sono venuti, noi non ci aspettavamo, quindi c'erano poche persone al campetto, sono state portate chi via con la forza, chi in ambulanza, una signora, qualcuno è uscito con le gambe sue, sempre dove sono stati presi i documenti, e niente. Ci sono un paio di momenti di parapiglia, però avevano completamente chiuso le strade, e quindi sul piano della forza è proprio impossibile. Certo. Il giorno stesso poi in piazza al centro c'è stato un presidio, ovviamente fatto su un 448, e da lì è partito anche un corteo non autorizzato che ha bloccato la strada statale, che è la strada principale, è stata la Adriatica, sarebbe. Mm-hmm. E da lì sono iniziate tutta una serie di situazioni per cui il sindaco sotto scorta, per cose che diceva lui, sì, assurde, e si è tirato su il corteo dello scorso 11. Sì. lo scorso 11 dicembre. Era stato partecipato anche dalla gente, perché dicevate che comunque avevate molto sostegno anche, vista la realtà piccola di Giulianova. È stato questo presidio e questo corteo, sono stati partecipati anche dalla gente o principalmente da, non so, militanti o compagni? Guarda, ti dico la verità, il corteo erano principalmente compagni e compagne, ma non perché non avevamo quei rapporti di pari tu, quei rapporti ce l'abbiamo, certo, tant'è quello che ce l'aspettavamo. È stato così il corteo perché per il sabato 11 c'è stata l'allerta meteo. E noi l'abbiamo saputo 5-6 giorni prima, certo, che c'era sto meteo, proprio diluvio, cioè neve sopra i 500 metri d'altezza, cioè proprio un delirio. Mamma mia. E però fino all'ultimo abbiamo pensato se rinviarlo o meno. E alla fine, ragionando, abbiamo detto che un corteo non è una cena, un concerto, se non sono troppe cose in ballo, rinviarlo poi non sapevamo quando, il giorno dopo, una settimana dopo, con tutta una serie di variabili, e quindi l'abbiamo mantenuto il corteo, e quindi la parte meteorologica l'ha fatto in modo che fossero principalmente compagni e compagni, ma c'erano anche persone della città. Ovviamente, certo, se ci fosse stata una giornata semi normale, sarebbe stato molto più partecipato. Però niente, è un corteo che alla fine... Però è stato giusto dare una risposta anche immediata, insomma, no? A una cosa del genere. Come no? Era proprio una cosa da fare, non troppo in là, perché poi... perché il ferro va battuto finché è caldo. Esatto. E ci eravamo dati una decina di giorni per organizzarlo. Sfiga voluto che non pioveva in quel modo da 4 mesi, però quel sabato lì, il giorno dopo c'era il sole, quel sabato lì è finito il mondo, non è così. Però mentre il corteo sembrava finito, qualche buon tempone ha pensato bene di occupare un altro posto. Okay. E quindi è nata un'altra occupazione, in un quartiere altrettanto bellissimo di Giulianova, che è un quartiere popolare. Da questa occupazione, ovviamente il primo giorno molto partecipata, i giorni a venire, oggi è il secondo, il terzo giorno di occupazione, o quarto, non mi ricordo, passano tante persone del quartiere. Oh, perché che bello. Chi è che ha occupato? Ah, su quelli del campetto. Quindi, parlando oggi, il fatto che fossimo quelli del campetto ci ha giovato di molto il rapporto con questo quartiere, da cui è un altro quartiere rispetto dove stava il campetto prima. Però vi conoscevano comunque. Sì, perché l'attività che facciamo è conosciuta, cioè abbiamo rapporti con la marineria, un po' con tutte varie situazioni, no? Ok. E quindi questa cosa qui, diciamo, ci ha facilitato molto, tante persone passano, portano cose e niente. Il posto è incantevole, è in un parco, solo enorme, quindi dobbiamo un attimo strutturarlo bene. E in tutto ciò noi pensavamo che la controparte, ovviamente, cioè, oltre a prendersela, perché c'è gli sgomberi dopo 6 anni e questi dopo 10 giorni ti rioccupano un altro posto, pensavamo vabbè, se la prendono, ma sta a posto così. Invece no, se la sono segnata al dito. E la cronaca di sti giorni, che è proprio di adesso, pare che i parlamentari abruzzesi vogliono fare un'interrogazione parlamentare sulla situazione che c'è in città. Sì. È proprio notizia di un paio d'ore fa, che è uscita su un giornale locale, che la Lega vorrebbe fare il corteo per la legalità nazionale qui a Giulianova. Se andate sulla pagina del campetto ci sono proprio gli screen degli articoli, con, loro dicono, a parte con Matteo Salvini, ma in più con dicendo che loro presidieranno gli spazi abusivi. Quindi, cioè, secondo il loro ragionamento, loro verranno a fare dei presidi fuori al posto occupato. E questo lo dico perché, ovviamente, se mai uscirà questa data, ovviamente, se loro si organizzeranno a livello nazionale a fare un presidio qui fuori, o lì fuori al posto occupato, ovviamente noi ci dovremmo organizzare di conseguenza. Certo, però magari chiamare anche, magari diffondere la cosa anche chi vuole venire a darvi un sostegno, no? Anche da fuori, magari. Sì, perché a tal proposito, per come sta prendendo, diciamo, come si sta allargando la questione, no? Noi siamo essenzialmente una piccola realtà di provincia, no? Certo. Però avendo diciamo, costruito una realtà, diciamo, al di fuori dello Stato e contro certe dinamiche autoritarie, no? Poi con questa cosa qui, come definizione del nemico pubblico interno, è ottimale per certi partiti. Poi arrivare che veniva Salvini qua fuori, ovviamente non ce l'aspettavamo fino a questa cosa qui, però a quanto pare si stanno muovendo in quella linea e nei prossimi giorni vedremo il da farsi. Ecco, quindi teneteci aggiornati anche su questa cosa, che sicuramente possiamo rifare anche un'altra diretta o un altro appello per chiedere aiuto. Mi sono dimenticata di chiederti una cosa, un po' per curiosità mia. Siccome questi DASPO anche qua a Milano li stanno dando così proprio a iosa. A Milano stanno usando questo DASPO Willy, no? Per cui ti viene perclusa una parte sola della città. E mi chiedevo, da voi i DASPO come hanno funzionato? Essendo una città così piccola, perché no? Cioè, nel senso, poi non è che vi auguravo il foglio di via. Però non vi davano il foglio di via perché eravate residenti lì, ma poi come funzionava? Semplicemente non potevate stare in delle zone. E poi come vi siete mossi rispetto a questo? Perché qui appunto, qua a Milano, è diciamo un problema che sta sorgendo, soprattutto adesso con le mobilitazioni del Green Pass. Il DASPO, forse mi sono spiegato male io, non mi riferivo al fatto che ci applicassero il DASPO, mi riferivo al fatto che l'amministrazione stava immettendo il DASPO urbano, che non era proprio nel regolamento di polizia municipale. Il Comune di Giulianova è stato il primo o il secondo in Abruzzo a metterlo a suo tempo. Noi abbiamo fatto tutta una campagna per non farlo essere presente nel nuovo regolamento di polizia municipale. Poi non abbiamo mai avuto a che fare, non ci è mai stato dato. È stato dato per la prima volta ultimamente a quattro ragazzini, penso, per una rissa o un pestaggio a qualcuno. Noi non ci abbiamo mai avuto a che fare, fortunatamente. Sì, se no ci davano i fogli di via da tutta la città, per chi non era residente. E nel frattempo avete già organizzato delle attività o state ancora solo sistemando il nuovo posto? Sì, facciamo cerchiamo di fare tutte e due in parallelo. Uh-huh. Sulla prima cosa me l'ho scordato, sul presidio nazionale della Lega, che dovrebbero fare qui in città i primi giorni di gennaio 2022, hanno okay. Documentata, quindi orientativamente quella dovrebbe essere. Va bene. Sulle iniziative, sì, perché noi avevamo indetto una proiezione dedicata a Lina Wertmüller alla Casa del Popolo la domenica, quindi il giorno dopo l'occupazione. Ovviamente l'abbiamo spostata nel posto occupato, la proiezione di film d'amore e d'anarchia. Sì. Questo fine settimana ci dovrebbe essere un concerto, penso all'80-90%. Comunque sì, iniziative, adesso è tutto in divenire qui, come i lavori, e quindi vabbè, voi siete una radio un po' di su, l'invito ovviamente vale per tutti e tutte, anche se siamo un po' lontanucci, anche a certo, però c'è gente tra di noi che si muove anche volentieri verso giù. Anch'io ero venuta ai tempi a presentare la foresta di Ambach, insomma. Quindi dai, sicuramente qualcuno accoglierà il vostro invito, speriamo. Beh, quando il posto è incantevole, sta quasi in riva al mare e sta in mezzo a un bosco di eucalipti, quindi per invogliare più di questo non so che dirvi. Beh dai, siete passati da Via dello Splendore a un posto incantevole, quale miglior cosa? Proprio così. Dai, va bene, allora adesso ti lascio. E tu hai una canzone che ti piacerebbe che mettessimo alla fine di questa intervista, oppure faccio io, scelgo io? Ottimo, non me ne ero... Vabbè, così. Non ci ho pensato, ma deve essere una cosa seria o una cosa pure giuliva? Ma anche giuliva, insomma, potete anche festeggiare il nuovo posto. Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Va bene, allora la metterò. Grazie mille, anzi, dell'intervista, e vi auguro tanta forza da qua, okay. E solidarietà. Ciao, buona, ciao. Un abbraccio. Vi ricordiamo inoltre che il Campetto Occupato ha una pagina Facebook, quindi se volete rimanere aggiornati sulle loro iniziative, vista anche l'occasione probabilmente di poter portare solidarietà a inizio gennaio, vi invito anche a visitarla, si trova facilmente andando su Facebook. Le informazioni invece della nostra radio saranno ripetitive e ridondanti, ma vi ricordiamo che abbiamo un blog, malaradio.noblogs.org, Oppure potete scriverci per insulti o complimenti, speriamo, a malaradio@autistici.org. Seguiteci anche sul canale Telegram, così saprete quando ogni tanto facciamo delle trasmissioni, dato che ormai non andiamo più in onda regolarmente una volta a settimana. Il canale si chiama semplicemente e banalmente Malaradio, non abbiamo molto più fantasia. E abbiamo anche noi la pagina Facebook. Insomma, se volete raggiungerci, raggiungeteci. Anzi, ci farebbe piacere se questa radio diventasse veramente uno strumento per tutto. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Ascoltiamo allora adesso la canzone richiesta per dedicarla alla nuova occupazione, festeggiare ogni tanto qualche vittoria, in cui la lotta non muore perché perde il luogo fisico dove si trova e dove agisce, e dove gli sgomberi non rompono proprio un bel niente. E adesso i figli delle stelle. Stanotte figli stelle, non ci penso.